Cosa fai? Eh beh, voglio vedere te con la candela. Insomma, ma smetti, uno fa la conduzione come può, con la candela. Lume tanto siamo alla radio, cosa devi vedere? Di candela. Guarda, che, guarda, Drago, senti qua, senti. No, ho capito, senti. Sì. Eh? Che hai bello. Capito, alla fine l'avrete capito tutti che K è entrato a far parte di quel club che ormai si sta allargando. Club? Non deve essere troppo infatti. Cioè, è entrato in un mondo, no, che è il smart mondo delle tavolette. Qualche giorno fa, qualche settimana fa, non mi ricordo neanche più, che io cantavo a squarciagola... Bene. Voglio uno smartphone. Ebbene, quindi è arrivato un flashback, lo smartphone. Non puoi parlarci sopra, no, Drago, tu lo fai così, radio, lo fai così in diretta il flashback. Già, no, è vero. Io scusa. Pensavo che fosse una roba di flashback. Vabbè, allora perché devi farlo in flash? Cioè, cosa non serve? So, a quel punto lo fai così. Vabbè, no? Tu c'hai una candela nel c***o e parli. Eh sì, K è entrato nel mondo dello smartphone, delle tavolette, sì, insomma queste stupidissime, no, appunto, tavolette di tecnologia che fanno i suonini, i giochini. No, ma il mio e che alla fine anche, cioè sì, fai il suonino. Sì, sì, sì, ma come? Ma è gigantesco come telefono, le dimensioni di un toast farcito, come fai? Ma non è vero, toast farcito vicino all'orecchio. Pronto? Pronto? No, pronto, pronto, cosa? Non c'è nessuno all'altro capo. Non so, vabbè, per farti vedere le dimensioni, no? dell'atteggiamento. Allora del... Pronto? Che pronto? Pronto, vabbè, sono alto 2 metri, c'ho il telefono che sembra una videocassetta, però pronto? Pronto? Vedi, se l'ho messo... pronto? Posso mettere... pronto? Anche se mi metto così faccio... pronto? Pronto? Sono Batman. Ciao Batman, sì, ho il telefono nuovo. Mi vedi? Con Skype? Ma tu dove sei? Ma prendere la Batcaverna o no?